Museo della Musica Bologna, It's Not Only Rock and Roll, le foto di Mark Allan, un'esposizione imminente che avrà spazio fino a settembre del 2023 a Bologna e siamo in compagnia di... Sono Pietro Romano, direttore artistico del MAP Festival di Taranto. E quindi una presenza che viene al di fuori ma che è assolutamente importante per la nostra città e che va a coadiuvare, ad arricchire questa esposizione. Per quanto riguarda l'artista, ci può fare lei un piccolo identikit? Sì, sicuramente. Mark Allan è colui che ha documentato in arte e in immagini, ovviamente, o meglio, con immagini artistiche, quella che è la storia della musica del rock and roll che è passato dal Barbican Sense negli ultimi 30 anni. Teniamo presente che Mark Allan ha avuto la possibilità di scattare delle foto non solo ufficiali ma anche in situazioni ufficiose, anche in situazioni private, delineando gli artisti per la loro umanità e non solo per la loro dimensione professionale e artistica. Questa è la specificità di Mark Allan, che ha voluto naturalmente condividere oggi qui a Bologna un suo passato che è diventato internazionale, quindi la sua professione che poi è diventato un documento meraviglioso per narrare del rock and roll internazionale. Alcuni nomi in mostra? Beh, sicuramente Tina Turner, David Bowie, che praticamente è tra i personaggi che in questo momento ricordiamo con più affetto. Abbiamo Richard Cross, abbiamo insomma, figure che naturalmente nelle loro specificità hanno dato tantissimo, come per esempio Elton John, come Freddie Mercury. Insomma, c'è veramente il mondo della musica internazionale, Amy Winehouse. Più vado avanti più me ne ricordo. Mi vengono in mente. Sì, e la mia presenza qui è giustificata dal fatto che l'Orchestra della Magna Grecia, che rappresento insieme al MAP Festival, sostiene questa mostra attraverso naturalmente non solo la realizzazione di un catalogo, ma anche quella di portare a Taranto una piccolissima parte di questa mostra per dialogare e triangolare una comunicazione ancora più forte e ancora più importante a livello nazionale. E quindi da Taranto ovviamente guardiamo con grande interesse questa mostra, ne rappresentiamo alcuni scatti anche durante il MAP Festival, che è questo festival di musica, architettura e parallelismi, che quest'anno in particolare è dedicato alle immagini e pertanto ancora diciamo più forte la motivazione di poter incontrare Mark Allan qui a Bologna, prendere dalle sue mani questi sei scatti che dalla prossima settimana saranno allestiti in contemporanea tra Taranto e Bologna. Beh Piero, benvenuto a Bologna, grande piacere scambiare queste quattro chiacchiere, facciamo finta di essere in diretta radiofonica, a breve lo saremo con il curatore della mostra, Pier Francesco Pacoda. Grazie. Certo, a tutti voi un grande saluto e a presto. Grazie.